si divisero in grossi gruppi dirigendosi a est, passando per le strade trasversali. Poi il corteo si riformò passando accanto a un quartiere, dove raccolsero mattoni e tondini di ferro. Dopo un isolato, la polizia li affrontò con un lancio di lacrimogeni, quindi i manifestanti si riversarono nelle strade laterali. Diversi poliziotti iniziarono a sparare contro i manifestanti. Due studenti attaccarono un poliziotto che iniziò a sparare colpendo al collo uno degli studenti. Altri sette manifestanti rimasero feriti da colpi di arma da fuoco. La manifestazione si riformò e si diresse in direzione della città vecchia, dove ci fu un'altra battaglia con la polizia. Ci furono 75 arresti e 21 poliziotti feriti. Il 9 mattina, come preannunciato, un gruppo di donne si radunò nel parco con caschi, mazze e le bandiere Vietcong. Bernardine Dorn, degli Weathermen, prese la parola dicendo: «Siamo qui per dire a tutti che questo non è un movimento di donne che va alla ricerca di gratificazioni ed autocompiacimenti. C'è gente che combatte ogni giorno e ogni minuto qui in America. Noi faremo parte di questa lotta. Siamo qui per andare al distretto e dire che si sta formando un esercito, un nuovo esercito sta sorgendo. Quello vecchio è in rovina, sta crollando dall'interno». Poi il gruppo di donne fu affrontato dalla polizia. Le manifestanti attaccarono il cordone di poliziotti, ma gli agenti con i manganelli e spray al peperoncino le ridussero all'impotenza. Ci furono 12 arresti. Nel pomeriggio si svolse il comizio davanti al Tribunale federale, dove si svolgeva il processo agli 8 della cospirazione indetto da RIM 2, dalle Pantere Nere e dagli Young Lords. La polizia circondò completamente la zona, ma non ci furono scontri. Alla marcia finale, l'11 ottobre, solo 300 persone circa affrontarono ancora una volta le schiaccianti forze di polizia. Circa 30 poliziotti furono feriti. Al comizio finale, il portavoce degli Weathermen disse: «Abbiamo fatto vedere ai porci che sappiamo batterci. Abbiamo fatto vedere ai porci che devono disperdere le proprie forze sull'altro fronte. Abbiamo fatto compiere al movimento un passo in avanti». Il bilancio finale fu 284 arresti, 77 poliziotti feriti, 8 manifestanti colpiti da arma da fuoco, danni materiali alla città superiori al milione di dollari e l'incriminazione per violazione criminose delle leggi locali e federali e di cospirazione dei membri del Weather Bureau. Le cauzioni ammontavano a ben 750.000 dollari. Gli arrestati poi subirono lievi condanne. I pochi che vennero condannati a 6 mesi vinsero la causa in appello. I 12 del Weather Bureau non si presentarono in tribunale e vennero da allora ricercati internazionalmente dall'FBI come latitanti. Ascoltiamo ora We Can Be Together dei Jefferson Airplane. I giorni della rabbia fecero parte di una più vasta offensiva d'autunno contro la guerra e l'imperialismo. A San Francisco ci fu un'azione dal 12 al 14 settembre contro la Conferenza Internazionale degli Industriali, alla quale parteciparono anche Agnelli e Pirelli. L'8 novembre ci furono una serie di manifestazioni che vengono così annunciate. Ci muoveremo nelle città di tutto il paese, lasciando il segno della nostra forza su commissariati, uffici di leva, scuole, tribunali e nelle strade. Il 15 novembre si tenne un'azione di massa organizzata dal New Mobilization Committee, in cui centinaia di migliaia di persone convergeranno su Washington chiedendo la fine della guerra, del razzismo e della povertà negli Stati Uniti. L'FBI, con una operazione illegale, il 4 dicembre uccise a sangue freddo nel loro appartamento Fred Hampton e Mark Clark, dirigenti delle Pantere Nere. Dal 27 al 30 dicembre a Flint, in Michigan, si tiene il Consiglio Nazionale di Guerra degli Weathermen. Vista la crescita dell'azione repressiva da parte del governo americano, al termine di quel raduno presero la decisione di entrare in clandestinità. Furono creati dei collettivi, ne verranno formati una dozzina in diversi stati. I collettivi vengono visti come organizzazioni prepartitiche, capaci di estendersi fino a diventare un partito comunista combattente. Racconta Billy Ayers. Avevamo provato a creare dei collettivi clandestini con lo zoccolo duro dei membri per portare avanti segretamente attività illegali ed elidere ogni azione repressiva, mentre allo stesso tempo con gli stessi si gestivano le organizzazioni regolari e una presenza pubblica. Il 6 marzo del 1970 avviene un'esplosione accidentale in una casa del Greenwich Village a New York, dove gli Weathermen stavano costruendo una bomba. Muoiono Ted Gold, Diana Hutton e Terry Robbins. Il 3 aprile 12 Weathermen vengono incriminati da un grand jury federale con l'accusa di promuovere una sommossa e per cospirazione. Due di loro verranno arrestati il 15 aprile dall'FBI. Nel maggio 1970 gli Weathermen compiono un attentato al quartier generale della Guardia Nazionale a Washington, dopo gli assassini che c'erano stati durante le proteste alla Jackson State University. Il 4 maggio, durante una cerimonia solenne, l'Associazione dei Poliziotti eresse nuovamente la statua in Haymarket Square a Chicago. Il 5 ottobre gli Weathermen la distrussero ancora una volta. «Ricostruiremo la statua», dichiarò il sindaco di Chicago. E così fu, ma questa volta fu spostata nell'atrio dell'Accademia di Polizia, sorvegliata 24 ore su 24 da un poliziotto, rimanendo inaccessibile al pubblico. Gli Weathermen chiamavano in codice la statua del poliziotto di Haymarket «Bad Moon», riprendendo il titolo di una canzone dei Creedence Clearwater Revival. Ascoltiamola. Oh! Il 21 maggio gli Weathermen emettono una dichiarazione di guerra contro il governo degli Stati Uniti, firmandola come Weather Underground Organization. È il loro primo comunicato dalla clandestinità, in cui possiamo leggere: «Noi oggi stiamo adattando la strategia classica della guerriglia di Vietcong e la strategia della guerriglia urbana dei Tupamaros alla nostra situazione qui, nel paese tecnologicamente più avanzato del mondo. Il 9 giugno attuano un attentato alla sede centrale della polizia di New York ed emettono il loro secondo comunicato in cui rivendicano l'azione. Il comunicato si conclude con queste parole: il momento è ora. Il potere politico nasce dalla canna del fucile, da una Molotov, da una sommossa, da una comune e dall'anima del popolo. Anche in questo caso fu data nella pianificazione dell'attentato un nome in codice alla sede di polizia di New York, Place. Anche questo ripreso da una canzone, questa volta degli Animals. We gotta get out of this place. Ascoltiamola. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Il 23 luglio altri 13 membri dell'organizzazione vengono incriminati per cospirazione col fine di commettere atti di terrorismo e di sabotaggio contro commissariati di polizia ed altre istituzioni. La struttura degli Weathermen risultò impossibile da infiltrare e dopo un paio di arresti avvenuti all'inizio della clandestinità, nessun agente riuscirà mai ad infiltrarsi al loro interno. Qualche tempo dopo, il consiglio di Flint fu deciso di sciogliere i collettivi e convertirli in gruppi di affinità, strutture più piccole che comprendevano da 5 a 25 militanti, i quali si conoscevano molto bene tra loro ed erano pertanto attentissimi nella scelta dei nuovi membri. Il 26 luglio gli Weathermen emettono il loro terzo comunicato in risposta alle incriminazioni del Dipartimento di Giustizia. Il 27 luglio avviene un'esplosione rivendicata dagli Weathermen in una filiale della Banca d'America a New York. In agosto fecero un attentato al tribunale della contea di Marin dopo l'assassinio di Jonathan Jackson. Il 15 settembre gli Weathermen emettono il loro quinto comunicato per rivendicare l'evasione dal carcere di Timothy Leary, che propagandava l'LSD per allargare le coscienze e che era in carcere con una condanna da 6 mesi a 10 anni per possesso di marijuana. Bill Ayers, nel suo libro Fugitive Days, scrive: «Il gruppo di seguaci di Timothy Leary, che ci interpellò nel 1970 per far uscire dal carcere californiano il loro guru, dimostrò un tempismo perfetto. Mesi prima avremmo trovato risibile lavorare con soggetti del genere e impossibile giustificare un'evasione individuale. E le migliaia che restavano dentro? Finché non fossimo stati in grado di penetrare attraverso i cancelli d'ingresso con un carro armato e un'armata rossa pronta a liberarli tutti, non avremmo mosso un dito. L'evasione di Leary, nome in codice Juju Eyeballs, tratto da Come Together dei Beatles, però, presentava una serie di elementi che volevamo sviluppare. Scaltrezza, per esempio, acume e inganno. Era un esercizio per quelle azioni di seconda linea che volevamo perfezionare. Le evasioni appartenevano al nostro futuro. Juju Eyeballs era principalmente una questione di cervello, pianificazione, cura dei dettagli, mobilitazione, per concludere con un momento di determinazione e coraggio. Ascoltiamo quindi Come Together dei Beatles. To be a joker. is so hard to see come together. In ottobre gli Weathermen lanciano l'offensiva d'autunno. Nello spazio di pochi giorni, con azioni simultanee in parti diverse degli Stati Uniti, vengono attaccati centri di ricerca collegati con la guerra, istituzioni carcerarie e tribunali. A ottobre gli Young Lords occupano, armi alla mano, una chiesa del quartiere portoricano di Harlem per farne un centro di iniziative popolari. Il movimento degli Young Lords era un'organizzazione che praticava la lotta armata e che si inseriva in una lunga tradizione di resistenza dei portoricani. Il 3 novembre inizia a New Haven il processo contro i membri delle Pantere Nere Bobby Seale ed Erica Huggins. Dal 27 al 29 novembre si tiene a Washington la convenzione costituzionale rivoluzionaria indetta dalle Pantere Nere. A dicembre esce il comunicato numero 7, dove gli Weathermen fanno autocritica per quello che chiamano l'errore militare, cioè il fatto di aver avuto sfiducia nel movimento di massa dei giovani bianchi dedicandosi ad un'azione esclusivamente militare. Si rivalutano le manifestazioni e le altre forme legali di protesta. Il 18 dicembre viene arrestata Judy Clark, membro degli Weathermen. Nel gennaio 1971 gli Weathermen pubblicano una lettera aperta alle 21 Pantere Nere sotto processo a New York. Dal 5 al 7 febbraio si tiene la conferenza di studenti e giovani di Ann Arbor in Michigan, dove vengono discussi e approvati i piani per le giornate di maggio contro l'invasione del Laos. Il 10 febbraio si tengono dimostrazioni in molte città contro l'invasione del Laos. Il 3 marzo una bomba collocata dagli Weathermen esplode alla filiale di Berkeley della Banca d'America. Nel marzo 1971 rivendicano un attentato dinamitardo al Campidoglio degli Stati Uniti, come protesta contro l'invasione americana del Laos. Si trattava anche di un'azione di appoggio alle previste manifestazioni che si sarebbero svolte a fine aprile a Washington e San Francisco. Per questo attentato viene arrestata Leslie Bacon del May Day Collective, che organizza le manifestazioni di aprile a Washington. Ma il comunicato numero 9 degli Weathermen la scagiona, rivendicando l'esecuzione dell'attentato. Il 9 marzo il Comitato Civico di Investigazione sull'FBI penetra nella sede dell'FBI di Media in Pennsylvania e asporta una consistente documentazione sulle attività spionistiche illegali nei confronti dei gruppi della sinistra radicale. Il 24 maggio si tiene una mobilitazione di massa contro la guerra. A Washington partecipano alla manifestazione in 500.000 e in 300.000 a San Francisco. Dal 5 al 15 maggio a Washington hanno luogo le giornate di maggio con scontri con la polizia. Lo slogan che le lancia è Se il governo non ferma la guerra, fermeremo il governo. Il 21 agosto George Jackson delle Pantere Nere viene assassinato nella prigione di San Quentin. Gli Weathermen portano a termine una serie di attentati agli uffici delle amministrazioni carcerarie di San Francisco, di Sacramento e di San Mateo in California. La squadra d'assalto George Jackson, un gruppo clandestino nero, assalta il commissariato di Ingleside, sempre in California, dove viene ucciso un agente di polizia. Dal 9 al 13 settembre avviene una rivolta nel carcere di Attica, nello stato di New York. Intervengono la polizia locale e la Guardia Nazionale, che uccidono 30 detenuti e 9 ostaggi, mentre altri 4 moriranno successivamente in seguito alle ferite. Il massacro di Attica e la morte di George Jackson scatenano proteste e rivolte in moltissime prigioni degli Stati Uniti. Avvengono anche molte violente manifestazioni in molte città. Due filiali della Chase Manhattan Bank subiscono attentati. Gli Weathermen fanno esplodere una bomba negli uffici dell'amministrazione carceraria di Albany, nello stato di New York, rivendicando l'attentato nel comunicato numero 11. Nel maggio 1972 gli Weathermen rivendicano un attentato dinamitardo al Pentagono come vendetta per i bombardamenti aerei su Hanoi. L'esplosione provoca danni ai locali delle forze aeree e al centro di elaborazione dati dell'aviazione. Non ci furono né morti né feriti. Come dice Bill Ayers, era tutto assolutamente perfetto. Il giorno che ho messo una bomba al Pentagono, il cielo era blu, gli uccellini cantavano e i bastardi avrebbero finalmente ricevuto quello che si meritavano. Dico io, sebbene in realtà non sia stato io a bombardare il Pentagono, siamo stati noi, nel senso che gli Weathermen hanno organizzato e rivendicato il colpo. Non che pensassi davvero che un chilo e mezzo di dinamite l'avrebbe buttato giù o comunque danneggiato più di tanto, anche se poi viene fuori che abbiamo fatto esplodere un bagno e quasi per caso l'acqua si è riversata nei piani inferiori, mettendo fuori uso i computer per un certo periodo, interferendo con la guerra aerea e inzuppandomi di profonda goduria. E poi racconta i preparativi. Costituimmo un gruppo speciale che esaminò la questione del Pentagono per mesi, poco prima di un annunciato inasprimento delle operazioni in Vietnam. Anna, Aaron e Zach affittarono un armadietto nei sobborghi di Washington, ci riposero dell'esplosivo, trovarono un appartamento economico e lo affittarono per una settimana. La ricognizione li condusse nel ventre del Leviatano e nel giro di poco tempo conoscevamo ogni sala e scala, ogni corridoio cieco, ufficio o bagno. Era tutto mappato nei dettagli, mentre l'appartamento assumeva le sembianze di una sala operativa alternativa, tetra immagine speculare del Pentagono. Anna, con i polpastrelli spalmati di smalto trasparente per non lasciare impronte digitali, camuffata alla perfezione con tailleur, camicia e valigetta, parrucca nera e occhiali spessi, cominciò a entrare nel Pentagono tutte le mattine, insieme con altre centinaia di impiegati. Camminava per le sale, faceva colazione al bar e usciva entro le 11. Non incontrò il minimo ostacolo. Come di solito gli Weathermen avvertirono con una telefonata al numero di emergenza con 25 minuti di anticipo che ci sarebbe stata un'esplosione nella sezione dell'aeronautica del Pentagono. Anche per il Pentagono fu usato nella preparazione un nome in codice tratto da una canzone di Bob Dylan, Maggie's Farm. Ascoltiamola. Driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Brains behind Ma. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just get bored. Nel maggio 1973 gli Weathermen realizzano un attentato contro il 103° distretto di polizia di New York per l'assassinio di Clifford Cleaver, un bambino nero di 10 anni ucciso dai poliziotti. Nel settembre 1973 gli Weathermen realizzano un attentato contro l'ITT come risposta al colpo di Stato in Cile. Nel marzo 1974 attaccarono gli uffici federali dell'Ente Salute, Istruzione e Assistenza a San Francisco e il 31 maggio fecero saltare l'ufficio del Procuratore Generale della California. Il 13 giugno fanno esplodere a Pittsburgh il quartier generale della Gulf Oil per l'appoggio dato dalla multinazionale al colonialismo portoghese. Nel gennaio 1975 rivendicano un attentato agli uffici dell'AID, l'Alleanza per il Progresso, nel Dipartimento di Stato, come risposta all'escalation della guerra in Vietnam. Con la fine della guerra del Vietnam rifluirono le tensioni ideali che avevano portato alle grandi proteste contro il conflitto. Le ipotesi rivoluzionarie persero la loro forza, una parte degli Weathermen decise di abbandonare la lotta armata e di sciogliere l'organizzazione nel 1977. Solo una piccola componente oltranzista decise di proseguire unendo le proprie forze al Black Liberation Army, che a sua volta in precedenza non aveva accettato la linea legalitaria ora portata avanti dalle Pantere Nere. I membri più importanti dell'organizzazione si costituirono tra il 1978 e il 1981. Nessuno di loro, a causa delle prove raccolte illegalmente dall'FBI, fu condannato per gli attentati compiuti. Solo David Gilbert e Katie Budin furono condannati all'ergastolo per l'assalto a un blindato finito in strage nel 1981, successivamente alla dissoluzione del gruppo. Katie Budin è stata scarcerata il 20 agosto 2003. Nel 2008 è stata assunta come docente alla Columbia University. Il primo ad arrendersi fu Mark Rudd nel 1974. Oggi Rudd vive ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, ed insegna matematica. Ha fatto autocritica rispetto alle scelte fatte dagli Weathermen. Viaggia in tutto il paese a sostegno del rinato SDS. Billy Ayers e Bernardine Dorn non fecero autocritica ed invece puntarono a mettere in evidenza l'inevitabilità delle loro attività politiche, dettata esclusivamente dall'impossibilità di trovare soluzioni adeguate al problema della guerra e dei suoi effetti. Bill Ayers ha pubblicato la sua autobiografia con il titolo Fugitive Days. Bernardine Dorn lavora nei tribunali per i diritti civili delle minoranze, delle donne e dei minori. Gli altri sono liberi e vivono negli Stati Uniti. In un incontro avvenuto a Roma alla biblioteca Moby Dick della Garbatella nel novembre 2016 ed organizzato dal centro sociale occupato ed autogestito La Strada e dalla Casetta Rossa, Bill Ayers, a proposito della loro resa, disse: «Consegnarci per noi non è stato un momento di gioia. È stata una scelta sofferta, ma in qualche senso necessaria, perché stavamo spendendo un sacco di energia a rimanere in clandestinità, energie che potevamo spendere altrimenti. Abbiamo pensato che non avrebbe dato alcun effetto positivo continuare a vivere da soli, isolati dal movimento. Il movimento stesso non dava i suoi frutti, se continuava ad essere diviso, se noi continuavamo a vivere ognuno nascosto agli altri. Bensì, sarebbe stato più utile tentare di riorganizzarci sotto una veste maggiormente legale». Concludiamo con alcune frasi tratte dal libro Fugitive Days. Diciamo che gli ingiusti sono particolarmente potenti, come spesso è accaduto nel nostro mondo, e impongono rapporti sociali che causano sofferenza. Ribadiscono che ogni oppositore che faccia sul serio verrà incarcerato e giustiziato. Insistono a concedere solo proteste pacifiche prevedibili, inderogabilmente circoscritte, e fanno osservare questo precetto con manganelli, pallottole e lacrimogeni. Si assicurano il monopolio del potere, il privilegio esclusivo della violenza, e la usano. Per chi volesse approfondire, ci sono alcuni libri. A cura di Harold Jacobs, Weathermen, i fuorilegge d'America. Di Bill Ayers, Fugitive Days, Memorie dei Weather Underground. Il libro documento Weathermen, Prateria in fiamme. Si conclude qui anche questa seconda e ultima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata agli Weathermen.